figlio mio, il furibondo oreste se viene a te, e della Grecia in bando. Misero, che mai vedo? E stolto Orlando? Ah, che vedo mai? Questa spada è rubata, e ne di Marte, e con ondate il centro della luna contro le donne a rivoltar le carte. Son come scopre e folle. Per te c'è poi di brutto, cadrò se non rimedi in precipizio di un ruina il tutto. Perché? Che dirà mai? Senti, che spera? Senti, senti, e compiagli la storia miserabile, ma vera, il mio povero amore, una bellezza avea abitato al bando. Allora quando, nada, ma crudeltà, non su rigor, nemici giuratissimi d'amore, fecero il bel desir. Oh, cruda sorte, fecero il bel desir. Riuscire in vano, cosa qui nell'empia sorte, e ha fatto insano. L'invito gentile che morre fe, madonna crudeltà, con guardo torvo e minaccioso aspetto desse. Vedi fritto? Je ne veux pas. E di rigor, presa beltà per mano, lasciò con passo grave, e c'era brutta il mio povero amore. A bocca asciutto, a pochi dal mio amor meco danzando. Danzian signora la follia d'Orlando. Suonate, suonate! La-la, la-la. Signora, a che di chio, quanto dolce con me. Vespe mio bella, mira che tardi in cuor, e giunto cielo, l'alto eroe, come mai perduto il senno. Vola, vola, vola, vola, vola, che vola, amore che fugge, Apollo, vedete dietro a noi montato in furia, per l'altissima ingiuria, fatta all'onesta suda e pulita, mettendo nel bordello il castuagnoro, quando angelica fu sposa a me d'oro.